ne immagini, ci servono più cure perché siamo instabili. Abili dottori e meriti imbroglioni, giocano soltanto sulle tue convinzioni. Milioni sborsati dalla tasca, senza i vostri soldi loro gioco casca. Fatta una misera ricetta, ed ecco che ti scorrono una medicina infetta. Resta lì, ricoverato, t'hanno frecato, stonato ed operato. Il dottorato chi gliel'avrà dato? Forse il papà che di soldi è sfondato. Sali, è sempre stato così e continua così, ed è per questo che ti rivolge a Rino. Non ci posso fare niente, tanti sono i problemi tra la gente, ma la sanità chi ci curerà? E grazie all'euro siamo entrati in povertà. Ufra, sentimi bene, ed è per questo che ti inietto queste flebo nelle vene. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Euro, problema serio che ci porterà alla povertà davvero. Calcoli difficili, riti impossibili, tipi che per spiccioli si rendono ridicoli. Insipidi si rifugiano nei vicoli, aspettando Cristo e i suoi miracoli. Metropoli in crisi, imprenditori uccisi, gente che piange fra tanti sorrisi precisi. Ci costruiamo un avvenire, pilastre fondamenta per me queste rime. Anche se l'euro non c'è nel mio cantiere, sai che ci sono liriche che fondono storie. Pressione assoluta, condizione estrema cresciuta e voluta. Schiavi dell'euro in maniera ingrandita, cade sabbia dentro sta clessidra. Monete abbondano, di papè sentiti che sprofondano, non pensando di chi si circondano, ma con una parola ti confondono. Monete abbondano, di papè sentiti che sprofondano, non pensando di chi si circondano, ma con una parola ti confondono. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Tra problemi oggettivi o personali, ci incazziamo tra di noi come animali. Vali o non vali, per la gente non conta. C'è gente che non sfonda, ma tenta la rimonta. Troppa gente assalita da problemi, scleri più veri, in giro tu li vedi. Con la testa in basso, privi di orgoglio, io un'esistenza così non la voglio. Voglio una vita tranquilla e rilassata, che ogni soddisfazione sia meritata. Evitando gente conosciuta e mai cagata, così scansandomi qualsiasi inculata. Buona giornata a te che respiri, a pieni polmone quel che guardi ammiri. Vivi tutto il contenuto minuto per minuto, mettendo la tua vita primi in assoluto. Tipi che sprofondano per tutti quei problemi che qui abbondano, e non sapendo neanche ciò che vogliono, perciò tutti i problemi gli ritornano. Tipi che sprofondano per tutti quei problemi che qui abbondano, e non sapendo neanche ciò che vogliono, perciò tutti i problemi gli ritornano. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto. Ed è così, sta vita va così, continua il suo strascelo dalla notte al dì. Anche se cresco non ci riesco di svoltare, quindi di lottare non la smetto.